abbiamo deciso di mollare le attività locali di sviluppo, diciamo le attività operative, quelle che sono sul territorio, e proprio in questo senso praticamente in data odierna abbiamo comunicato l'intenzione di mettere in mobilità, diciamo, le persone che lavorano per la Brindisi LNG, che è la nostra società di progetto, sul territorio di Brindisi. Questo è chiaramente un passo che il gruppo ha deciso di prendere per mettere il progetto in una, chiamiamola, una pausa di riflessione e in qualche modo di riconsiderare la fattibilità stessa dell'investimento. Quindi è chiaramente, possiamo dire, che le attività locali sono cessate, pensiamo di riconcentrare le attività a questo punto di rivalutazione a livello centrale, prevalentemente su Milano, ma chiaramente questo per noi è uno stop piuttosto importante del progetto. In quel rigassificatore, ammesso che si faccia, British Gas non ci sarà più. No, in questo momento quello che possiamo dire è che in questo momento il rigassificatore per la British Gas è un progetto che è sostanzialmente in fase di rivalutazione. Diciamo che più ormai è passato troppo tempo, sono passati più di 12 anni da quando la British Gas ha in qualche modo iniziato l'attività di progetto. Chiaramente dopo 12 anni e non avere un progetto che è totalmente fermo, su cui nonostante abbiamo investito più di 250 milioni di euro, chiaramente in questo momento la nostra attenzione, l'attenzione del gruppo si focalizza su altre priorità. Il progetto, come siamo, diciamo, ormai è in stallo e per noi è un progetto che sicuramente finisce al fondo della lista delle priorità per il gruppo BG nel mondo. Questo è. Chiaramente non possiamo ancora dire, abbiamo dei procedimenti ancora in corso, aspettiamo l'esito dei procedimenti, ma chiaramente non è la prima priorità del gruppo in questo momento. E a questo punto come sono le cose? Che cosa state attendendo voi adesso? Ma allora, la cosa singolare di questo progetto è che sostanzialmente è un progetto che inizia nel 2000 e che in questi ultimi 12 anni praticamente è stato riautorizzato, comunque la procedura di autorizzazione è stata eseguita per ben due volte. La seconda volta, sostanzialmente, che ci aspettavamo fosse ancora più veloce della prima, consideriamo che la seconda volta è stata fatta anche per andare incontro delle esigenze del governo italiano. Noi nella prima volta, nell'autorizzazione del 2003, abbiamo applicato una legge del governo italiano, poi nell'ottobre del 2007 ci è stato comunicato che questa legge era soggetta a una procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea, il governo italiano ci ha quindi richiesto di poter in qualche modo rivedere il processo autorizzativo, che noi comunque riteniamo valido ancora quello originale, ma con in buona volontà siamo ripartiti. E parliamo del 2008. Tra il 2008 e il 2010, nel 2010 otteniamo una nuova via, dal 2010 sostanzialmente ad oggi, considerando che normalmente il governo dovrebbe emanare un decreto autorizzativo nel giro di 200 giorni, sono passati 600 giorni, cioè tre volte tanto il tempo indicativo, e il progetto è ancora esattamente così bloccato. Quindi chiaramente quello che a noi manca in questo momento è la riconvalida di un progetto che a questo punto ha sorpassato tutte le rivalutazioni tecniche e ambientali.